Elizabeth Garrett Anderson e le mediche dell'età vittoriana. Elizabeth Garrett nacque nel 1836 a Londra, in epoca vittoriana. Qual era la posizione della donna nell'Inghilterra di quel tempo? Circa 50 anni prima della sua nascita, Mary Wollstonecraft, antesignana del femminismo liberale, in nome della libertà e dell'indipendenza di tutte le donne e gli uomini, aveva pubblicato il suo libro sui diritti delle donne, in cui scriveva: «È tempo di operare una rivoluzione nelle maniere femminili, restituire loro la dignità perduta e farle lavorare e, riformando se stesse, riformare il mondo». Ed ancora: «Le donne devono avere un'esistenza civica, lasciate che la donna condivida i diritti ed emulerà le virtù dell'uomo». Mary Wollstonecraft era molto in anticipo sui tempi. 5 anni dopo, nel 1797, lasciò il corpo e per mezzo secolo la condizione delle donne cambiò poco. Il ruolo, infatti, delle donne nella società vittoriana era quello di sposarsi e partecipare solo agli interessi e agli affari dei loro mariti. Prima del matrimonio, le donne imparavano abilità casalinghe come la tessitura, la cucina, il lavaggio e la pulizia, a meno che non fossero di una famiglia ricca, perché in tal caso sarebbero state le loro cameriere ad occuparsi principalmente delle faccende domestiche. In generale, alle donne non era permesso acquisire conoscenze al di fuori della casa, poiché quello era il mondo degli uomini. La mentalità dell'epoca affermava che una donna è inferiore a un uomo in tutti i modi, tranne in quello che conta di più, la sua femminilità. Il suo posto in casa, posto su un vero e proprio piedistallo e non nel mondo degli affari. Uno scrittore dell'epoca, Sir Charles Petrie, spiegava esattamente cosa cercava l'uomo vittoriano. L'innocenza è ciò che si chiede alle ragazze di classe e non solo devono essere innocenti, ma anche dare l'impressione esteriore di essere innocenti. Gli abiti più indicati sono di mussola bianca, tipica della purezza virginale, con delicate sfumature di blu e rosa. Il marchio dell'approvazione maschile era posto sull'ignoranza del mondo, la mitezza, la mancanza di opinione, l'impotenza generale e la debolezza, e in breve sul riconoscere l'inferiorità femminile al maschio. Le aspettative che gli uomini nutrivano nei confronti delle donne facevano sì che esse si preparassero solo per il matrimonio e lasciavano loro pochissima libertà. Se una donna non soddisfaceva le aspettative dell'uomo vittoriano, sarebbe finita senza coniuge. Fin dall'infanzia, tutte le ragazze, nate al di sopra del livello di povertà, sognavano un matrimonio di successo, perché era possibile emergere nel mondo solo attraverso questo. Quando dunque Elizabeth venne alla luce nel 1836, il mondo non valutava le donne con rispetto. Ma lei nacque in una famiglia in cui regnavano l'amore e il senso di giustizia e le bambine e i bambini consideravano ogni cosa in uguale misura. Era la secondogenita ed il primo ricordo della sua infanzia fu di quando aveva 4 anni e il padre la svegliò contro il parere della madre prendendola in braccio perché potesse vedere dalla finestra il corteo che accompagnava la regina Vittoria e il principe Alberto mentre si dirigevano a teatro dopo il loro matrimonio nel 1840, dicendo che la piccola lo avrebbe ricordato per tutta la vita, come in effetti fu. L'anno successivo la famiglia si trasferì sulla costa a Holbrough, nella contea di Suffolk, a circa 150 km da Londra. Ogni 2 anni una nuova creatura si aggiungeva alla famiglia, che alla fine era costituita da 6 sorelle e da 5 fratelli. La madre Luisa era il centro di gravità della famiglia ed oltre ad essere impegnata nella cura dell'ultimo nato, teneva sotto controllo tutta la situazione della famiglia ed anche un'accurata lista delle spese. Aveva un aspetto ingannevolmente gracile. Era una buona donna d'affari e la fonte della sua forza era la fede, con un'appassionata appartenenza alla Chiesa evangelica. Il padre Newson era di buon cuore, ma di carattere impetuoso e litigioso. Probabilmente non era andato a scuola e forse da questa mancanza venne il grande rispetto per l'educazione. Fu molto attivo in tutti gli affari di Holbrough e del distretto circostante. Fondò malteria, aveva una piccola flotta di chiatte, condusse una fabbrica di mattoni con cui costruì file di case di cui fu l'architetto e grazie a tutti questi affari riuscì a vivere bene, a parte un breve periodo di difficoltà economiche, e ad educare la sua famiglia in modo generoso, facendo sì che figli e figlie in maniera uguale ricevessero il meglio in rapporto alle sue condizioni. Nel 1849 Luisa, chiamata Louis, la maggiore, che aveva 15 anni, ed Elizabeth, che ne aveva 13, frequentarono a Peckham, un quartiere di Londra, l'Accademia per le figlie dei gentiluomini. Elizabeth ricorderà di quell'esperienza di 2 anni, soprattutto dopo aver lasciato la scuola, la povertà dell'insegnamento, la grande sete di conoscenze e le amicizie che influenzeranno la sua vita e l'apprendimento della lingua francese che doveva sempre essere parlata. Un aneddoto singolare è che, poiché il padre aveva concordato con la direttrice che le sue 2 figlie dovessero godere di tutti gli extra della scuola, compreso un bagno caldo 1 volta a settimana, le 2 sorelle erano nominate le sorelle del bagno. Per inciso, occorre ricordare che nel 1849 i bagni erano inusuali e che Castello di Windsor ne era stato installato uno solo 2 anni prima, grazie allo zelo riformatore del principe Alberto. La vita familiare a Holbrook era felice. In un'epoca in cui molti bambini appartenenti alla classe media erano confinati negli asili, Elizabeth era libera di esplorare le saline, le ripide spiagge sassose e poteva correre sulle reti stese ad asciugare. Poteva scrutare i pozzi dove tenevano in vita il pesce finché non poteva essere spedito a Londra. Elizabeth crebbe con una salute ed una vitalità superba, tanto che poté dire alla fine della sua vita di aver lavorato per 70 anni senza nemmeno un mal di testa. Le amicizie delle bambine e dei bambini erano tra le capanne lungo la spiaggia, dove le mogli dei pescatori sedevano all'ingresso a ramandare le reti, e da queste Elizabeth imparò una semplicità incontaminata che mantenne per tutta la vita. L'armonia regnava nella famiglia di Elizabeth e le ragazze si dedicavano l'una all'altra chiamandosi The Sisterhood, la sorellanza. Louis forniva la grazia, Elizabeth la determinazione, Alice il gusto letterario, Millicent e Josephine l'arguzia e Agnes, che non si maritò, la maternità. Animata da un'allegria semplice, tutti possedevano uno spirito pubblico e il desiderio di aiutare le altre donne. Il padre, i cui affari erano prosperi, aveva costruito nel 1852, all'età di 40 anni, Aldy House, una villa circondata da giardini e recinti che comprendeva scuderie, granai, una latteria, una serra, una porcelaia, un grande orto, una ghiacciaia, una lavanderia ed un bagno turco. Nel 1857 lui, la maggiore, si sposò e andò a vivere a Londra, offrendo in tal modo costante ospitalità alla sua famiglia. Ed Elizabeth, che aveva allora 21 anni, prese il suo posto a casa come sorella più grande. Al mattino studiava latino e matematica, a volte sotto la guida di un tutor che preparava il fratello per entrare nell'esercito, e ad aiutare le sorelle e i fratelli più piccoli nei loro compiti con un'attitudine quasi materna, e ogni domenica aveva inventato le conversazioni sui temi generali, che consisteva nel riunirli insieme intrattenendoli su argomenti riguardanti le vicende del mondo, come ad esempio gli anni 40 della grande fame, la carestia delle patate o la guerra di Crimea. Nel 59 Elizabeth era ormai rimasta a casa da 8 anni dai tempi della scuola, mentre la terza figlia, Alice, 17enne, era in grado di prendere il suo posto mentre le altre ragazze pure stavano crescendo. Elizabeth voleva fare spazio a loro e per sé sentiva il bisogno crescente di interessi più ampi e di qualcosa di degno da fare, incoraggiato in questo anche dalla lettura di un nuovo giornale dedicato interamente alle questioni femminili, The English Journal of Women's, che nel 1858 segnò l'inizio in Inghilterra di un movimento femminista organizzato. Una caratteristica del giornale era quella di pubblicare una serie di articoli sulla carriera di donne eminenti, come Florence Nightingale, di cui la nostra scuola si è occupata e ne lasciamo il link in descrizione, la quale era considerata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, in quanto per prima applicò il metodo scientifico della statistica, o come Rosa Bonheur, pittrice francese molto nota anche in Inghilterra e negli Stati Uniti, la grande Rachel, l'attrice teatrale francese. Fu in uno di questi articoli che probabilmente Elizabeth lesse per la prima volta di Elizabeth Blackwell, nata a Bristol ma emigrata da bambina con la famiglia negli Stati Uniti, che sola, senza influenze né denaro, fu la prima donna laureata in medicina nel 1849 nella piccola università di Geneva, nello stato di New York, e che aveva aperto il suo dispensario tra le donne e i bambini dei bassi fondi newyorkesi. Con questi pensieri in testa, all'età di 23 anni, partì da casa per una visita che decise il suo futuro. Il padre, un uomo davvero speciale se si pensa a come generalmente i padri dell'epoca ignorassero le figlie femmine, desiderava che le sue figlie vedessero il mondo e forniva volentieri denaro per questo scopo. Prima che lui si sposasse, lei ed Elizabeth si erano recate a Gateshead, circa 500 km a nord di Holborough, a far visita a Jane e a Annie Crowe, compagni di scuola a Black Hills, e qui avevano incontrato anche Emily Davis, amica di Jane, fatto questo che si rivelò decisivo per le sue scelte future. Nel 1859 le sorelle Crowe chiesero ad Elizabeth di tornare a far loro visita, e lei accettò fermandosi lungo il percorso ospite della sorella a Londra, dove partecipò ad un ciclo di 3 conferenze tenute dalla medica Elizabeth Blackwell sul tema La medicina come professione per le donne, che suscitò in lei tanta curiosità. Giunse quindi a Gateshead indecisa ed insieme attratta dalla medicina come professione e qui rincontrò nuovamente Emily Davis, figlia di Mary, insegnante, e di un pastore evangelico e rettore di Gateshead, che dall'esperienza di un'educazione ricevuta in casa come la sorella, concentrata a differenza di quella dei fratelli, principalmente sui doveri domestici, aveva sviluppato una grande sensibilità sull'aspetto dell'educazione per le giovani ed insieme ad altre donne avrebbe fondato nel 69 il Girton College, la prima scuola per giovani donne che avrebbe offerto un'istruzione a livello universitario. Emily pensava infatti che fosse necessario provvedere ad una migliore educazione per le giovani e che tutte le professioni, specialmente la medicina, dovessero essere aperte alle donne. Il tema delle donne medico era un argomento su cui Emily Davis aveva posizioni molto decise. Come figlia del clero, era partecipe della vita della parrocchia, conosceva direttamente i tiguri di una città industriale e aveva visto da vicino la realtà della vita femminile. Per questo era convinta della necessità che laureati in medicina si occupassero delle donne e dei bambini, che costituivano più della metà della pratica medica ordinaria, anche per il contributo che potevano portare all'educazione delle mogli e delle madri, ed in particolare allo sviluppo di una salute anche nel campo dell'alimentazione e della cura dei bambini. Lei stessa non si sentiva adatta a fare la pioniera nella medicina e per questa parte del programma aveva bisogno di una donna con particolari caratteristiche. Con questo spirito incontrò a casa delle sorelle Crowe Elizabeth Garrett, che a quel tempo aveva 23 anni, era di media statura, la sua salute era magnifica ed irradiava vitalità ed energia. Rideva raramente e non era mai rumorosa. La sua voce era piacevole e i suoi modi non affettati ed amichevoli. Aveva un'espressione determinata e non severa, una carnagione chiara e capelli ramati portati all'indietro da una fronte ampia. Emily Davis, probabilmente esaminando tutte queste caratteristiche, decise che Elizabeth Garrett poteva essere la pioniera ideale. Durante la permanenza di Elizabeth presso le sorelle Crowe vi fu una fitta conversazione e probabilmente Elizabeth soprattutto ascoltò ed espresse dubbi sulle proprie capacità. Dopotutto, diceva, come riportato da Barbara Stephen nel libro dedicato ad Emily Davis e al Girton College, era del tutto ordinaria, sarebbe stata all'altezza del compito e altre donne l'avrebbero seguita. Partì da Gateshead tentata dall'avventura e l'influenza di Emily Davis, del cui giudizio si fidava, fu decisiva. A Arrivata a casa, informò subito la sorella Alice: «I'm going to be a doctor», diventerò medica. Il padre all'inizio affermò che l'idea che diventasse medica era così disgustosa che non poteva tenerla in considerazione neanche per un momento. La madre, che non accettava facilmente idee nuove, era inorridita dalla proposta della figlia e, considerando una disgrazia che se ne andasse da casa, si chiuse in camera da letto e si ammalò piangendo. Elizabeth era molto attaccata alla madre, ma ne aveva ben chiari i limiti e inoltre sapeva distinguere una malattia immaginaria da una vera. Anche tutti i parenti le consigliavano di rinunciare ai suoi progetti. In seguito confessò di non aver avuto idea delle difficoltà che l'attendevano e che erano profondamente radicate nella storia sociale della professione che aveva scelto. Fin dal Medioevo le donne inglesi erano state escluse dagli studi scientifici ed i progressi della medicina degli ultimi 300 anni erano stati compiuti solo dagli uomini. Le donne erano state escluse in successione dalle corporazioni mediche, dal Royal College e dalla buona pratica professionale, persino dell'ostetricia. Nel 60 le prospettive per qualsiasi donna che volesse ottenere una qualifica in medicina in Inghilterra erano più scoraggianti che mai. Interessi acquisiti, pregiudizi e consuetudini così potenti nella società britannica erano contro di lei. L'abilità e l'intelligenza da sole non sarebbero riuscite a riconquistare i diritti persi ad uno nel corso dei secoli e in nessun altro luogo d'Europa questa professione era così ostinatamente ostacolata come in Gran Bretagna. Molto conforto Elizabeth ebbe dallo scambio epistolare con Emily Davis, attraverso il quale trattavano gli aspetti dell'argomento che interessavano alle loro menti, le cause della posizione attuale delle donne e ogni mossa che Elizabeth faceva per portare avanti i suoi progetti. Fondamentale fu questa amicizia in cui Emily Davis si adoperò come guida e consulente. Nel giugno del 1860, a 24 anni, Elizabeth si recò a Londra con il padre per cercare la strada per essere ammessa agli studi di medicina. Nessuno dei medici consultati per avere indicazioni su come procedere offrì aiuto e diede credito alle sue alte aspirazioni. Alcuni risero, altri furono sgarbati, tuttavia un risultato ci fu, perché il padre espresse la sua più totale disponibilità in tempo e denaro per sostenere ed avere successo in quella che lui ora riteneva la loro causa. Attraverso le amicizie di Emily Davis, Elizabeth cominciò a frequentare per un periodo preliminare di 6 mesi il reparto di chirurgia del Middlesex Hospital. Nel reparto di chirurgia a quei tempi le conoscenze intorno alle misure per contrastare le infezioni batteriche erano ancora all'inizio, poiché Joseph Lister, solo nel 1867, mise a punto il suo metodo della sepsi, cioè quell'insieme di procedure per prevenire infezioni in ambiente medico e chirurgico. La mortalità era spaventosa per le infezioni che si verificavano, anche per situazioni banali. I chirurghi non indossavano i guanti e usualmente si lavavano le mani dopo gli interventi e non prima, abitudine dalla quale si scoprì poi che derivava la cosiddetta febbre puerperale che decimò tante donne dopo il parto. Le operazioni che venivano eseguite erano poche e in gran parte consistevano in amputazioni di arti a seguito di fratture. Elizabeth si approcciò sin dal primo giorno obiettivamente e con distacco e in pochi giorni aveva stabilito la sua routine. In breve tempo fu notata dal dottor Nunn, direttore dell'ospedale, assistente chirurgo e responsabile della sala di dissezioni, che stava facendo un piccolo intervento e poiché non era svenuta la vista del sangue, le spiegò esattamente ogni passo dell'intervento e alla fine, vedendo l'interesse che l'animava, le propose di frequentare il suo ambulatorio. Procedendo nelle esperienze e guadagnando sicurezza, si rese conto che non era sufficiente per lei essere una pioniera in una nuova professione, ma desiderava creare una nuova modalità di relazioni tra uomini e donne, con amicizia, uguaglianza e distacco. Dopo 3 mesi, considerando che era trattata dai medici di reparto e dal chirurgo dell'ambulatorio come se fosse una studente, facendo anche le stesse pratiche per cui gli studenti pagavano, chiese al tesoriere della scuola di medicina di poter vestare la stessa quota degli studenti maschi. Questa richiesta le venne rifiutata per evitare che pagando potesse risultare come una regolare studente iscritta alla scuola di medicina ed ebbe tuttavia, in cambio di una donazione all'ospedale, la possibilità di una stanza dentro l'ospedale, non avendo il permesso come donna di frequentare la sala di sezioni a disposizione degli studenti maschi e soprattutto ebbe il permesso di avere lezioni private dal farmacista dell'ospedale, dottor Joshua Plaskett, di latino, greco e materia medica per 3-4 ore presso il dispensario dell'ospedale e per un periodo di 6 mesi. Ottenne anche di poter essere in servizio da sola di notte, per cui si organizzò in maniera metodica, attento a non fare rumore, passando regolarmente tra le file dei letti. Il medico responsabile del reparto, dottor Willis, si offrì come insegnante di anatomia e fisiologia. Il padre, con generosità, fu d'accordo nel sostenere ogni lezione privata di cui Elizabeth avesse bisogno. Elizabeth non riteneva di avere una mente di altissimo livello. Era entrata in medicina quasi per caso e la sua forza era nella sua costanza e nell'ostinazione contadina dei suoi antenati e in un'intensa e determinata volontà di successo. Spesso era molto insoddisfatta dei propri successi, considerandosi solo un'accurata, scrupolosa lavoratrice. In una lettera a Emily Davis del dicembre del 60 scriveva: «Probabilmente la maggior parte delle donne non è molto più dotata di me. Un esempio da parte di una donna dello stesso calibro sarà più utile di quello di una persona più brillante, anche se si vorrebbe che il successo fosse in dubbio, come probabilmente solo una donna dotata potrebbe fare». Dopo quasi un anno del suo inizio nell'ospedale del Middlesex, trascorso tra il lavoro in reparto come infermiere, le lezioni private del dottor Willis e dottor Nunn e la frequenza nell'ambulatorio di chirurgia di quest'ultimo, ottenne di frequentare la sala di dissezione degli studenti e del corso di chimiche con lezioni e laboratorio. Quando le venivano poste delle domande, rispondeva con calma e chiarezza. Nel giugno del 61 ottenne un certificato d'onore in ogni esame di classe e andò così bene che l'esaminatore le disse, come riportato in una lettera a Emily Davis, «La prego di usare ogni precauzione per mantenere il segreto con gli studenti». Se l'avesse ascoltato avrebbe notato un certo raffreddamento tra i medici del reparto ed un calo di cordialità nel reparto ambulatoriale. L'opposizione alla sua presenza stava crescendo. Molti studenti erano stati disposti a tollerare la sua presenza, supponendo che presto avrebbe trovato il lavoro troppo sgradevole o troppo difficile e avrebbe rinunciato. Era inquietante scoprire che si trattava di una studente capace ed ambiziosa, una futura rivale nella pratica, che aveva tutte le probabilità di avere successo. Oltre a scherzare a sue spese, gli studenti di Middlesex si ritrovarono ad essere oggetto di scherno degli ospedali rivali, per aver permesso ad una ragazza di condividere i loro privilegi maschili. Sempre in un modo che a loro risultava esasperante, Elizabeth era presente, piccola, composta con la testa rossa, alle lezioni, alle cliniche o alle operazioni, comportandosi come se fosse un diritto naturale ad un posto nel mondo degli uomini. La sua fredda compostezza era più irritante di qualsiasi comportamento provocatorio. Nel mese di giugno, sempre del 61, un medico stava conducendo la sua classe in giro per il reparto ed Elizabeth, come al solito, si muoveva tranquilla tra loro. Fermandosi accanto al letto di un paziente, fece una domanda sul caso. Nessuno dei ragazzi riuscì a pensare ad una risposta e il silenzio fu interrotto dalla voce bassa e chiara della signorina Garrett, che diede la risposta corretta. Alla fine la classe si dispersa ed un gruppo di circa 40 studenti si riunì nell'aula per discutere su come fare per far allontanare l'intrusa. L'ospedale ronzava di voci sulle loro intenzioni e alla fine inviarono una petizione al direttore dell'ospedale, affermando la loro intenzione di lasciare l'ospedale se fossero state ammesse le donne senza nessuna accusa relativa ad Elizabeth stessa. Giustificarono la loro decisione affermando la inopportunità che maschi e femmine si mescolassero in una classe dove si studiavano materie fino ad ora considerate di natura delicata esprimendo nello stesso tempo rispetto a Elizabeth per la purezza delle motivazioni e grande ammirazione per la sua abnegazione dettata dal suo entusiasmo. In attesa della decisione finale da parte del direttore, Elizabeth scrisse alla sua amica Emily Davis: "È terribilmente irritante, ma non dispero. Niente mi impedirà di studiare né di fare finalmente il mio lavoro, qualunque esso sia. Siamo inclini a commettere errori riguardo alla vocazione, ma credo che possiamo credere che Dio ci terrà al suo servizio in qualche modo, se cerchiamo di vedere cosa e dove con mente aperta. Non mi sento affatto schiacciata, anche se un po' alla deriva." The Lancet, il giornale medico-scientifico di allora e che anche oggi rappresenta una delle riviste più prestigiose in campo scientifico, il 6 di luglio del 61 pubblicò il seguente editoriale: "Una donna tra gli studenti. Il pomo della discordia sta per essere gettato nei nostri ospedali. Una signora, femmina causa belli, è penetrata nel cuore del nostro sistema ospedaliero ed è decisa a stabilire un alloggio permanente. Come deve essere accolta la nuova intrusa? Dobbiamo accoglierla come in tutte le altre occasioni? Dovremmo accogliere una donna e desiderare di aiutare una donna che mira a giovare al suo sesso non meno che a se stessa? Oppure dobbiamo resistere alla carica degli ombrellini?" L'editoriale, inoltre, riferendosi alla sua serietà scientifica, si meravigliava del fatto che, come riportava, questa signora fosse in grado di affrontare con calma le manipolazioni per la ricerca di calcoli nella vescica maschile, in maniera insensibile ai sentimenti sgradevoli che la sua presenza doveva suscitare. Lo scrittore si congratulava inoltre con gli studenti del Middlesex per la loro determinazione a liberarsi di lei e si augurava che tutte le altre scuole seguissero il loro esempio. Elizabeth, per quanto irritata, ignorò l'articolo per evitare che un suo intervento potesse danneggiare altre possibilità in altre sedi. Tuttavia, fu presto difesa il 27 di luglio da un altro giornalista, che firmando come testimone oculare fece notare che la vescica in questione apparteneva ad un bambino di circa 2 anni e sottolineò che l'articolo aveva dato una imprecisa e maliziosamente falsa notizia. La settimana successiva The Lancet pubblicò un altro editoriale che sosteneva la inutilità di educare le donne alla medicina, dal momento che non potevano ottenere in Inghilterra un diploma di qualifica valido e liquidava tutti gli sforzi di Elizabeth come un'agitazione inquieta e morbosa in cui non era presente alcun principio degno di nota. L'ospedale in questa questione formava un microcosmo della professione medica nel suo complesso. Da un lato gli oppositori di Elizabeth, ispirati da un misto di interessi acquisiti e di reale disapprovazione, e dall'altro i suoi sostenitori, compagni di studio, professori, medici ed altro personale sanitario, la cui libertà da pregiudizi e la constatazione delle capacità personali di Elizabeth avevano finalmente ammesso la possibilità di donne medico come colleghe. Elizabeth soffrì, ma non si arrese. Per altre 6 settimane, con piena padronanza di sé, si recò quotidianamente all'ospedale, completando il corso di lezione e i laboratori di chimica a cui aveva diritto avendolo pagato, sostenendo gli esami e ottenendo i certificati. Il 3 dicembre del 1862, il giornale francese Le Temps pubblicò un simpatico commento in una lettera indirizzata ad Elizabeth e riportato nel giornale inglese delle donne, che terminava con parole di incoraggiamento: "Qualsiasi sia la questione di questi dibattiti, la vostra causa ha vinto davanti all'opinione pubblica. L'Europa vi guarda e la Francia vi applaude." Si conclude quindi in questo modo la parte di studi migliore e più consecutiva di Elizabeth. Aveva trascorso 1 anno in uno dei principali ospedali universitari di Londra, aveva ricevuto aiuto e gentilezza ed aveva raggiunto un'ottima conoscenza della scienza e della pratica medica. Era deludente lasciare il Middlesex, ma questo aumentò il suo coraggio e con calma decise di fare esperienza altrove e di qualificarsi rifacendo i suoi programmi per il futuro partendo da questi fatti. Dopo aver fallito i tentativi di iscriversi all'università, oltre che a Londra, anche a Oxford e a Cambridge, con la medesima ragione che nessun insegnante avrebbe accettato di esaminare donne come candidate agli esami, Si diresse quindi in Scozia. Riuscì nel 63, a 27 anni, ad essere accettata al corso presso la società di farmacia del St. Andrew's Hospital in Scozia, per un cavillo legale sottoposto ad un avvocato che aveva deciso a suo favore e che consisteva nel fatto che la vendita dei farmaci non era proibita alle donne, per cui non poteva essere, in quanto donna, rifiutata agli esami, dal momento che la licenza era indispensabile per praticare la vendita dei farmaci. Tale licenza prevedeva inoltre l'apprendistato presso un medico per 5 anni prima dell'esame finale e la frequenza di 3 anni di una scuola di medicina, fatto questo più difficile. Decise di fare la richiesta presso l'Università di Londra, prossima ad un nuovo statuto, secondo cui il Senato accademico avrebbe avuto possibilità di estendere il beneficio dell'ammissione agli esami anche alle donne, senza fare menzione specifica alla laurea in medicina. La richiesta di Elizabeth ricevette tuttavia una votazione sfavorevole. Al St. Andrews in Scozia, invece, incontrò l'appoggio di un professore di medicina e fisiologia che le indicò una scappatoia, consigliandole di iscriversi solo per lo studio di un esame del corso e di fare richiesta della sua registrazione e, una volta ottenuto il lasciapassare, sarebbe stata identificata come studente dell'università. Tuttavia, questa infrazione allo statuto, che prevedeva l'iscrizione a tutto il corso, non poteva rimanere nascosta e alla fine il Senato accademico rifiutò la sua presenza alle lezioni. Elizabeth, come scrisse la sorella Louis nel dicembre del 62, risollevò il suo spirito con la sua usuale velocità. Il suo nuovo piano fu di superare gli esami nella scuola di farmacia ed in seguito di andare all'estero per ottenere la laurea in medicina. Rimase in Scozia e continuò a seguire le lezioni private di anatomia e fisiologia, gli ambulatori di medicina generale e di ostetricia sotto la guida di importanti e buoni medici. Più acquisiva conoscenze in medicina generale, più sentiva la necessità di fare esperienze in anatomia e chirurgia attraverso le autopsie e per questo scrisse a vari medici offrendo laute somme a questo scopo e ricevendo risposte in cui manifestavano disappunto per le sue richieste, ritenendo che le donne non dovessero scendere a contatto con seni ripugnanti non utili a loro e ai pazienti e che Dio aveva riservato loro molte altre sfere di utilità. Dopo ripetute delusioni nel 64, ottenne il permesso di visitare il reparto del London Hospital con la qualifica di infermiera e con la possibilità di studiare, ottenne l'opportunità di avere lezioni di anatomia e di dissezione dal professore dell'università e di seguire gli ambulatori di ostetricia. L'esperienza in questo ospedale non durò a lungo e infatti in una lettera a Emily Davis del febbraio del 64 scrisse: «È un lavoro angosciante stare in piedi senza avere nulla di preciso da fare e la consapevolezza di essere sotto il fuoco di occhi critici, infermieri, pazienti e studenti». Le venne inoltre in seguito impedito di partecipare anche alla visita in reparto con i medici e gli studenti e poté solamente aggirarsi da solo nei reparti. Dopo 6 mesi di presenza in ospedale, non si sa per quale motivo venne espulsa. Questo nuovo intervallo della formazione ospedaliera non fermò la sua indomita decisione ed anche per la sollecitazione di amicizie tra il personale del Middlesex Hospital, Elizabeth chiese il permesso di visitare i reparti dell'ospedale stesso senza essere riconosciuta come studente ma come visitatrice. In questa ulteriore condizione insoddisfacente rimase per i 5 successivi mesi fino al marzo del 65, riconoscendo tuttavia la preziosità della formazione ricevuta, oltre alla rete di amicizie create tra il personale. Nell'autunno del 65 la lotta di Elizabeth stava per finire. Aggiungendo un corso di lezioni all'altro, dopo aver trascorso 6 anni di studio costante e aver superato con successo tutti gli esami preliminari, aveva completato il curriculum imposto ai candidati per sostenere l'esame di diploma in farmacia. Presentò pertanto la domanda alla società di farmacia, l'unico ente esaminatore che in base ai termini del suo statuto non poteva escluderla in quanto donna. Il Consiglio degli esaminatori, dimentico dell'impegno assunto in precedenza, voleva rifiutare la domanda, ma il padre di Emily lanciò un ultimatum e minacciò un'azione legale con il risultato che Elizabeth ottenne di essere ammessa e superò con successo l'esame diplomandosi come farmacista specializzata. Il The Lancet, la prestigiosa rivista scientifica che 4 anni prima si era rallegrata per l'espulsione di Elizabeth dal Middlesex, si affrettò con un articolo a congratularsi con lei, anche se ancora in termini scherzosi, intitolando l'articolo «Abiti e camici». Era impossibile negare la sua abilità, il suo duro lavoro e la sua determinazione, il tempo e il denaro che aveva speso per la causa. Senza dubbio, aveva osservato l'editorialista, gli esaminatori avranno avuto il dovuto riguardo per il suo sesso e avranno omesso tutti quegli argomenti di esami che sarebbero stati scioccanti per la mente femminile. Per la prima volta nella storia britannica una donna aveva superato un corso di formazione medica riconosciuto e, pur non avendo ancora una laurea, si era assicurata una qualifica legale e nuova nel suo paese. Era un risultato unico e personale ed Elizabeth lo sapeva. Ero, per così dire, nella fortezza, ma da sola, e probabilmente lo sarei stata per molto tempo, come scrisse anni dopo in una bozza per un discorso pubblico. Nell'autunno del 65, in Berkeley Street, al numero 20 di Londra, comparve una targhetta con scritta Elizabeth Garrett, diplomata in farmacia. Aveva 29 anni ed iniziò la sua pratica come consulente solo per donne e bambine e fu determinata ad esercitare la sua pratica conforme ai più rigorosi standard di dignità e professionalità. Dopo circa 6 mesi di pratica si decise a fondare un ambulatorio, sostenuta anche dal rettore della Christian Church della sua parrocchia, che comprendeva 30.000 anime nei suoi bassi fondi, e per questo Elizabeth propose un dispensario dove le donne povere potessero ricevere consigli medici gratuiti o quasi da una donna qualificata. Il dispensario venne aperto con il sostegno della classe medica ed infatti un ex professore di medicina della London Hospital accettò di essere uno dei medici consulenti e alla modesta cerimonia di apertura affermò, come riportato dal British Medical Journal, «Non solo la gestione è esclusivamente nelle mani delle donne, ma nella signorina Garrett abbiamo la prima praticante donna legalmente qualificata che l'Inghilterra possa vantare». Ritengo molto importante che le donne che entrano nella professione non si aspettino di avere la supervisione medica a meno che non abbiano ricevuto una formazione medica completa ed abbiano sostenuto un esame finale. E questo è ciò che ha fatto la signorina Garrett. E ciò che è più importante è che ha le conoscenze che la qualificheranno per praticare con abilità e successo. Ricevette anche il sostegno di amicizie liberali e fu soprattutto la coincidenza dell'epidemia di colera che consolidò questa realizzazione attraverso sottoscrizioni e donazioni. Nell'atmosfera di panico creatasi, l'ostilità verso questa donna che praticava le cure mediche in quella situazione di emergenza fu dimenticata. Il dispensario Santa Maria, che aveva aperto la sua attività il 2 luglio del 66, 16 giorni prima del primo decesso londinese per colera. Nell'autunno del 66 l'epidemia di colera si stava esaurendo e l'attività di quei mesi alla fine consolidò il principio di un dispensario per le donne con personale tutto femminile. Elizabeth lo frequentava 3 volte alla settimana e trovava 30-40 donne al giorno disposte a pagare un penny per i suoi consigli, come citato appunto nella relazione annuale del dispensario St. Mary's, Santa Maria, del 67. Stremata dalla povertà o malconce, logorate dal peso dei figli e dalla lotta contro la sporcizia, le donne le confidavano i loro problemi, come mai avrebbero potuto fare con un uomo. Le prostitute, costrette a seguire il loro mestiere fino a quando non erano troppo malate per continuare, confidavano le loro sofferenze perché trovavano nella giovane medica un'amica di cui fidarsi. La qualità della sua pratica venne ben descritta da Josephine Butler, attivista femminista dell'età vittoriana, impegnata nella campagna per il suffragio femminile, il diritto ad un'educazione migliore per le donne e l'abolizione della prostituzione minorile. La vita della Butler era una lotta continua per la mancanza di salute e dopo aver consultato vari medici da Liverpool raggiunse nel 68 Elizabeth a Londra e in una lettera ad un'amica scrisse: Ma per quanto riguarda la signorina Garrett, devo dire che ho guadagnato più da lei che da qualsiasi altro medico, perché non solo ha ripetuto tutto ciò che gli altri avevano detto, ma è entrato molto di più nel mio stato mentale e nel mio modo di vivere di quanto loro potessero fare, perché ero in grado di dirle molto di più di quanto avrei potuto o voluto dire a qualsiasi uomo. Elizabeth non poteva promettere la salute e non offriva mai alle sue pazienti speranze infondate, ma aveva una visione reale dei problemi delle donne.